Nella Bibbia, la parola di Dio, nella lettera agli Ebrei al capitolo 11 e versetto 6, è scritto: «Senza fede è impossibile piacere a Dio». Purtroppo anche questa grande verità è stata compresa male, travisata o fraintesa, per cui sembra che basta avere fede e tutto il resto è a posto. La fede viene vista come un talismano, cioè quell'oggetto che possiede delle virtù magiche, o come una panacea, cioè quel rimedio che guarisce tutti i mali, ma non è così, anzi. Si può avere fede e non piacere a Dio. Infatti la parola di Dio non dice piace a Dio chi ha fede, ma che senza fede è impossibile piacere a Dio. L'affermazione è al negativo e non al positivo. La differenza è enorme e, per farmi capire, riporto alcuni esempi. Se dico che senza soldi non si può comprare una certa macchina, o che se non hai il biglietto obliterato non puoi salire sul treno, cosa capite? Che se non ho dei soldi non posso comprare una macchina, e se non hai il biglietto obliterato non puoi salire sul treno, come che senza fede è impossibile piacere a Dio. Ma non è detto che chi ha dei soldi compri la macchina, né che chi ha il biglietto obliterato salga sul treno. Chi ha dei soldi può benissimo comprare anche altre cose, mentre chi ha il biglietto obliterato può anche non salire sul treno. Così è della fede. Si può avere fede e non piacere a Dio, mentre è impossibile piacere a Dio senza fede. Proprio perché, questo è un dato di fatto, mi propongo di spiegare come è perché sia possibile avere fede e non piacere a Dio. Innanzitutto occorre premettere che ci sono almeno tre tipi di fede e, cioè, la fede naturale, la fede religiosa e la fede cristiana. La fede naturale è quella fiducia che dimostriamo ogni giorno e mediante la quale è possibile vivere e relazionarci con il prossimo. Infatti, quando apro una bottiglia o mangio del cibo comprato, non mi prendo la briga di esaminare se l'acqua è avvelenata o se il cibo è avariato. Così, se uno mi dà l'appuntamento alle ore 8, non dubito di ciò che ha detto e arrivo all'orario fissato. Questo tipo di fede naturale, posseduta da tutti, non è sufficiente per piacere a Dio. La usiamo perché Dio ce l'ha data, come usiamo ogni altro dono naturale. Nulla, quindi, di virtuoso o di meritorio nell'usare la fede naturale che possediamo. Poi vi è la fede religiosa posseduta da coloro che credono in una entità suprema, alla quale rendono un culto. Anche questa fede non è automaticamente sufficiente per piacere a Dio, perché altrimenti chi crede in Buddha o in Allah sarebbe nel giusto. Mentre Gesù ha dichiarato espressamente che solo lui è la via per accedere al vero Dio, proprio per la comune erronea comprensione dell'affermazione che senza fede non è possibile piacere a Dio, credendo che sia sufficiente avere fede per essere in regola con Dio. Molti sono persuasi che basta credere, senza tenere conto dell'oggetto in cui si crede. Infine, vi è la fede cristiana, e per fede cristiana non intendo riferirmi a una fede nella religione cristiana, ma ad una fede riposta in Cristo. Anche questo tipo di fede può essere insufficiente per piacere a Dio. Possiamo vederlo in un passaggio del Vangelo di Giovanni. Mentre Gesù si trovava a Gerusalemme durante la festività della Pasqua, molti credettero nel suo nome, vedendo i segni che egli faceva. Gesù però diffidava di loro perché conosceva tutti e non aveva bisogno che altri testimoniasse sulla uomo. Egli infatti sapeva ciò che vi era nell'uomo. Se prendiamo sul serio la scrittura, capiamo che molte persone credettero nel nome di Gesù, nel senso che credettero a tutto ciò che comportava la persona di Gesù, e questo non è poco. Eppure Gesù non si fidava di loro, ossia, non avrebbe scommesso su di loro. Tuttavia, avevano creduto. Dove sta l'errore? Queste persone non avevano di fatto creduto, oppure Gesù sbagliava con il suo scetticismo? Nessuna delle due ipotesi, perché queste persone avevano creduto in Gesù vedendo i segni o miracoli da lui compiuti, per cui la loro fede era riposta in un Gesù taumaturgo o guaritore, anziché nel Gesù venuto per salvare ciò che è perduto. Di questo tipo di persone Gesù non si fidava, dimostrando che non è sufficiente avere fede in Dio per piacergli. Se Gesù si è comportato così, anche noi dobbiamo avere lo stesso atteggiamento verso chi si professa credente. Dopo aver visto guarigioni inaspettate o aver vissuto esperienze fuori dal comune. Molto probabilmente l'obiezione a questa conclusione è ovvia, ma Gesù conosceva il cuore degli uomini. Chi sei tu per dover dubitare della fede altrui? Gesù poteva non fidarsi di chi poneva fede in lui, ma tu non ne hai il diritto. Da un certo punto di vista questa obiezione è più che giusta, ma dimentica che tutta la Bibbia ordina il credente di non essere sprovveduto e di esaminare bene ogni cosa. Prima di tutto, è scritto nel libro dei Proverbi che chi crede ad ogni parola è uno scemo, Proverbi 14.15, mentre altre traduzioni rendono che l'ingenuo o lo sciocco crede ad ogni parola. Quindi, non è affatto buono e neppure saggio credere sempre a ciò che si sente dire, e per questo tutto deve essere vagliato. Inoltre, l'ordine che troviamo nella prima lettera di Giovanni è perentorio, cioè indiscutibile. Carissimi, non credete a ogni spirito, ma provate gli spiriti per conoscere se sono da Dio. Poiché molti falsi profeti sono venuti nel mondo. Da questo voi conoscete lo spirito di Dio. Ogni spirito che confessa Gesù Cristo venuto nella carne è da Dio. 1 Giovanni 4, 1. Dunque, non bisogna essere dei sempliciotti o degli sprovveduti, ma tutto ciò che si ode deve essere esaminato. Non tanto nelle parole, ma nello spirito con le quali vengono dette. Quando il Papa afferma che vi è una sola Chiesa, dice il giusto, ma lo spirito con il quale lo afferma lascia intendere che, essendovene una sola, essa è la Chiesa di Roma, ed è sbagliato. Questo dimostra che vi sono delle verità bugiarde, come quelle del diavolo. Quando disse ad Adamo e a Eva che sarebbero stati come Dio, disse una verità, Genesi 3.22, ma egli tralasciò di dichiarare anche il resto, cioè che sarebbero stati allontanati da Dio. Dopo aver considerato con cautela ogni parola, il passo susseguente è provare gli spiriti. Quando una persona afferma di credere in Gesù, quando sostiene di essere figlia di Dio, la prudenza cristiana insegna la necessità di verificare la validità delle affermazioni e una buona conversazione, o un periodo di tempo, sono più che opportuni per conoscere se tali parole sono da Dio. Che poi avere fede non sia sufficiente per piacere a Dio lo dimostra l'episodio descritto nel libro degli Atti al capitolo 8 in merito a Simon Mago, un uomo che usava le arti magiche. Quando udì la predicazione di Filippo, credette, sì, al Vangelo e fu anche battezzato. Atti 8.13. Ma più tardi, quando vide gli apostoli che per l'imposizione delle mani davano lo Spirito, santo offrì loro del denaro per ottenere una tale capacità. Pietro però gli rispose, il tuo cuore non è diritto davanti a Dio. Io ti vedo pieno di amarezza e prigioniero di iniquità. 8.1823. Simone era certamente un credente, ma ciò non era sufficiente perché si fosse liberato completamente dai legami del passato. I neoconvertiti devono essere esaminati e provati. Vi è un altro episodio che, preso sul serio, fa riflettere. Lo troviamo al capitolo 8 del Vangelo di Giovanni. Mentre egli diceva queste cose, molti credettero in lui. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui, «Se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi». 8.3032. In questa affermazione di Gesù comprendiamo subito una cosa. I credenti e i discepoli sono due categorie distinte. Infatti dei giudei erano diventati credenti perché avevano creduto in Gesù, ma per diventare discepoli di Cristo dovevano in seguito ubbidire a quello che insegnava. Questo è anche facilmente accettabile, ma quanto segue è veramente sconvolgente. Gesù accusa coloro che avevano creduto in lui di volerlo uccidere e li censura come figli del diavolo. Incredibile, ma vero. Questi giudei che avevano creduto in Gesù erano, senza ombra di dubbio, dei credenti. Infatti Giovanni specifica che Gesù si era rivolto ai giudei che avevano creduto in lui Eppure, volevano uccidere Gesù. Questa purtroppo è una realtà anche oggi. È possibile credere in Cristo e nutrire dell'odio verso coloro i quali, come noi, hanno posto la stessa fede in Cristo, così come è possibile essere credenti e uccidere dei figli di Dio. Qualcuno potrebbe rimanere scandalizzato per questa conclusione, ma Gesù lo ha profetizzato in modo sintetico quando disse, rivolgendosi ai credenti, Iaile, molti si scandalizzeranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Matteo 24.10. Come questi giudei credenti volevano uccidere Gesù, oggi tanti credenti fanno guerra ad altri credenti e, in certi paesi, tolgono loro anche la vita. Sembra incredibile, ma porre fede in Gesù non è sufficiente per piacere a Dio, e, se è vero che senza fede è impossibile piacere a Dio, è pure vero che con la fede si può arrivare anche a produrre in Dio ripulsione, schifo, ribrezzo. Come porre fede in Cristo, Gesù non è sufficiente per essere discepoli? Così, altrettanto non è sufficiente per essere graditi a Dio? Chi crede in Gesù e alle sue parole ha la patente per poter guidare la propria vita su un sentiero giusto e equo, ma non tutti quelli che hanno creduto imboccano la strada giusta o hanno tolto completamente i legami col passato. E per questo, a volte, certi credenti si comportano peggio degli increduli. 1 Corinzi 5.1, 1 Timoteo 5.8. Una realtà che deve metterci in guardia. Prima di tutto dovrò verificare la qualità della mia fede. Poi, provare o controllare la fede altrui, senza alcun pregiudizio, ma con amore e verità. Pochi lo hanno capito, ma i più grandi diffidenti della testimonianza altrui sono stati i primi cristiani. I riti principali del cristianesimo erano il battesimo e la cena del Signore, ma ai neofiti non veniva mai permesso di parteciparvi fino a quando non avevano trascorso un certo periodo di tempo come catecumeni ed avevano dimostrato con la loro vita la sincerità e la genuinità del loro pentimento dai peccati e di aver dimostrato di possedere una conoscenza delle verità cristiane sufficiente a permetterne l'ammissione nel corpo regolare dei credenti. Soprattutto in merito alla salvezza per grazia. Così tutti quelli che venivano accettati nella Chiesa apprendevano, prima di diventare appartenenti all'organizzazione ecclesiastica, che la salvezza era senza opere meritorie e che né riti o cerimonie sarebbero serviti per ottenere la vita eterna. Inoltre Gesù doveva essere di fatto l'unico Signore e Dio da adorare. Queste basilari verità dovrebbero, ancora oggi, essere la base per l'ammissione a far parte della Chiesa locale. I primi cristiani rifiutarono di compiere sacrifici davanti alla statua dell'imperatore e di adorarla. Sarebbe stato facilissimo per essi sfuggire alla persecuzione se avessero rinunziato alla pretesa che il cristianesimo fosse la sola vera religione o avessero accettato di compiere un atto puramente formale quale quello del culto reso alla statua dell'imperatore. Non avrebbero rinunciato a nulla del loro culto e la sola cosa che avrebbero dovuto fare sarebbe stato di aggiungere agli altri riti e cerimonie il culto all'imperatore. Ma i primi cristiani compresero che, se fossero scesi a compromessi su questo punto, sarebbero scesi a compromessi in ogni cosa che faceva del cristianesimo la sola vera e valida religione. Essi rifiutarono perciò di venire a patti con le altre religioni con le quali entravano in contatto ed esigevano che chi accettasse il cristianesimo abbandonasse ogni altro culto che non fosse quello del Dio Trino. È possibile oggi tollerare una professione di fede in Cristo e continuare a pregare Maria o i santi, essere sottomessi al Papa e alla religione cattolica romana? Una domanda formale. Perché se la fede dei primi cristiani era senza nessun compromesso, e questo a costo della loro vita, come può oggi il credente agire e reagire diversamente? Sono in grado, i cristiani d'oggi, di comportarsi in tale modo? Aprile 2010. Ellero,